Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1810. Si è data la rivolta tirolese, fucilato il capo, il Trentino Bolzano e Dobbiaco annessi al Regno d'Italia. Dopo il divorzio da Giuseppina, Napoleone sposa un Asburgo e Maria Luisa d'Austria. Ribellioni in tutto il Sud America contro gli spagnoli, alcune giunte proclamano l'indipendenza. A Monaco, per festeggiare i reali, grande festa a base di birra e popolo ubriaco nelle piazze. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Dunque, la rivolta tirolese è finita. Pochi mesi. Per pochi mesi il Sud Tirolo ha creduto di aver conquistato l'indipendenza dal regno bavarese, anch'esso sotto l'influenza di Bonaparte. Ma la rivolta non ha avuto successo, nonostante le molte battaglie vinte dai due leader, Andreas Hofer e Peter Mayr. I due adesso sono null'altro che un ricordo, arrestati e caduti sotto i colpi di un plotone di esecuzione a Mantova. Hofer ha raccontato chi era presente all'esecuzione, ha chiesto che non gli fosse messa la benda sugli occhi e di poter dare lui stesso l'ordine al plotone. Così è avvenuto per un eroe popolare che voleva lottare per la riannessione all'impero austriaco e si è trovato tradito dallo stesso imperatore. L'altro imperatore, Napoleone, non ha avuto pietà. Il territorio è stato smembrato, una parte annessa al Regno d'Italia, Bolzano compresa, il resto spartito tra Baviera e Regno Illirico. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Com'era nelle attese, intanto il Bonaparte si è risposato dopo il divorzio da Giuseppina di Beauharnais. La sua nuova moglie è l'appena 19enne Maria Luisa d'Asburgo, figlia dell'imperatore Francesco II, un matrimonio dal quale Napoleone cerca l'erede che con Giuseppina non ha trovato, ma che è anche il suggello della pace tra Francia e Austria dopo l'ennesima sconfitta di Vienna a Wagram. Un'ondata di ribellioni contro l'occupazione spagnola sta attraversando il sud del continente americano. Il processo indipendentista è favorito dal fatto che al momento la Spagna è a sua volta occupata dai francesi. Alcune giunte di alcune città, come La Paz, Quito, Buenos Aires, Santiago del Cile, hanno proclamato la formazione di un governo autonomo, mentre in Messico è scattata una rivolta contro l'oppressione della popolazione india, guidata da un prete, Miguel Hidalgo y Costilla. E torniamo all'Europa per i festeggiamenti che si sono svolti tra il 12 e il 17 ottobre a Monaco di Baviera in occasione del matrimonio del principe Ludwig I e Teresa di Sassonia-Hildburghausen. Alla festa che si è svolta nelle piazze della città ed è stata accompagnata da una corsa di cavalli è stato invitato a partecipare tutto il popolo. L'ubriachezza non ha tardato ad arrivare, ma tutti si sono divertiti così tanto che vi è l'intenzione di replicare quella che è stata ribattezzata come Oktoberfest. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, potete visitare il nostro blog o la nostra pagina Facebook e lasciarci un commento o farlo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.